Claudio, Buongiorno Gianluca, buongiorno. chi sollevavi? Io sollevavo mia nonna, ho iniziato circa 30 anni fa per scherzo a sollevarla e questa cosa qua in realtà inizialmente la faceva sentire un po' a disagio e poi esplodeva in una risata fragorosa. Come la prendevi su? Qual era la tecnica? Così vediamo, ci confrontiamo anche sulla tecnica. Ecco, diversamente da te, perché non la sollevavo sulla spalla ma la cingevo alla vita e la sollevavo da dietro. L'importante era staccare i piedi da terra. Come la tabaccaia di Fellini, per dire. Sì, più o meno, esatto. È un'altra presa, io prendo la presa sulla spalla perché è la più asettica, quella che implica meno contatto fisico, ecco, la prendi certo. Sull'osso della spalla e quindi non senti nulla se non il peso. Certo, la nonna era la nonna, quindi mi potevo permettere certo, una contiguità, chiaro. Insomma, diversa. Comunque esplodeva in una risata fragorosa e questo tra l'altro era una cosa che io praticavo molto quando si creavano tensioni familiari. Io mi alzavo e minacciavo mia nonna di sollevarla e poi la sollevavo e tutti si mettevano a ridere e questo provocava così una rottura della tensione, grande ilarità. Sì, in effetti è vero, quando uno ha un contrasto forte, fare un gesto irrazionale è completamente straniante rispetto al contesto. Mettiamo che uno litiga con una donna, con la moglie, la fidanzata, via dicendo. Prenderla improvvisamente in braccio, sulla spalla, rompe la catena inesauribile del contrasto.